Ci fermammo a fare rifornimento a Holmavik, 350 abitanti. Il ragazzo che gestiva il distributore era biondo, giovane e, come tutti gli islandesi, decisamente più voluminoso di me. Indossava una maglia del Parma Calcio con la scritta Cannavaro sulla schiena. Sono Andrea Cavaliere, ho 37 anni, vivo a Moncalieri, abito a Moncalieri in provincia di Torino e nella vita faccio l'architetto, ma in particolare mi occupo di pianificazione urbanistica. Proprio per questo motivo, per questo mestiere, mi piace moltissimo viaggiare, in particolar modo mi piace viaggiare nei paesi del Nord Europa. Che cos'è che ci rende o che vi rende o che vi fa sentire in particolar modo italiani? Ci sono alcuni che questa roba proprio non, di questa cosa non se ne curano. Non sto parlando di patriottismo, No, sto proprio parlando di quella caratteristica vostra, del lavoro che fate, della vostra vita di tutti i giorni, che vi fa sentire in particolar modo italiani. Che sia un luogo comune, che sia qualcosa che invece è una caratteristica propria e che voi ritenete essere particolarmente vostra e particolarmente italiana. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Ma c'è anche un profilo Facebook del programma, che lo ripeto è sempre quello, che è quello anche su cui scarichiamo il podcast. Lo carichiamo il podcast quasi sempre, no? Quasi tutti i giorni. Vabbè, se volete riascoltare i programmi, comunque, oltre al profilo Facebook, dove Tiziano, devo dire, più che io, carichiamo il podcast, lo trovate sempre sul sito di Radio 24 alla voce podcast. Ma tant'è, lì ha già scritto qualcuno, Maria ad esempio. Maria dice: mi rende italiana la mia fede indistinta per il buon cibo e il caos. Mi piace mangiare bene e fare le cose un po' così, alla carlona, che forse non è proprio una qualità, ma mi fa sentire molto italiana. O come dice, come si chiama il personaggio di Boris? Tanto non lo posso dire perché è un po' volgare, però avete capito, Pannofino che fa... come si chiama il regista? René! René, giusto? Un po' così, le facciamo un po' così. Giada, mi fa sentire italiana sistemare le cose all'ultimo momento e farle stare su con lo sputo. Ragazzi, qualcosa di meglio però. Organizzo eventi. E già questa roba dell'organizzare eventi è straordinaria. Cosa vuol dire esattamente organizzare un evento? So che ci sono dei master in organizzazione di eventi, giuro, forse anche qua. Anche qua? Mi sa di sì, Non lo dovevo dire? No, ci sono dei master molto interessanti in organizzazione di eventi qui al Sole 24 Ore. Giada, organizzo eventi e la sensazione è che ogni volta le cose non funzioneranno mai. Saranno disordinate, sbagliate, magari rotte. Poi non si capisce bene perché, ma come per magia, tutto si aggiusta. È una cosa molto nostra. Un po' capito cosa dice Giada. È un po' è vero. C'è sempre... mi è capitato di organizzare... non di organizzare, perdonate, però di partecipare a questi macro eventi e ogni tanto dici... oddio, finisce tutto in vacca. E invece poi c'è qualcuno che è più bravo, qualcuno che si presta. E non so se è una roba italiana, però succede. 349-238-6666. Igor... mi rende italiano il fatto di avere preso la cittadinanza qui, il fatto che mia figlia è italiana e qui io posso lavorare, cosa che in Moldavia, da dove arrivo, non riuscivo a fare perché il lavoro mancava. E sono italiano anche perché ho un bel mutuo da 600 euro al mese. Qualsiasi sia la ragione per cui in qualche modo vi sentite più italiani di altri o semplicemente più italiani di un francese, 349-238-6666. Tutto perché? Perché è arrivato un racconto di Andrea che raccontava di un suo viaggio all'estero e sempre succede così, no? Si va fuori e ci accorgiamo che siamo italiani per diversi motivi. Lui era in Islanda, era in un paesino sperduto e incontrava una persona che gli faceva capire e lo faceva sentire più italiano di quanto non si sentisse. Quel tizio era un benzinaio. Islanda, estate 2003. Avevo deciso di trascorrere le mie vacanze facendo un viaggio in Islanda, senza tour operator né prenotazioni, senza consigli né indirizzi o persone da raggiungere. Un volo, un'auto a noleggio e una cartina stradale dettagliata rigorosamente in islandese. La prima cittadina di un migliaio di abitanti, Húsavík, la incontrammo dopo 1100 chilometri e quasi 10 giorni di viaggio. Un'eternità. Percorsa tenendoci il mare sulla destra, lungo la numero 1, l'unica strada interamente transitabile con un mezzo privato che non avesse quattro ruote motrici. tra gli immensi paesaggi vuoti, fatti di lava e di muschio, fiordi minuscoli, ammantati da una struggente nebbia novembrina e isolati distributori di carburante che diventavano l'unico vero spazio di ritrovo per le persone. A Olafsfjörður, in quello che sembrava una sorta di autogrill irreale, trasmettevano alla televisione una partita del campionato di calcio inglese. C'era il sole e i giocatori si fronteggiavano sudati. Dietro alla televisione, però, le grandi vetrate del bar inquadravano il mare, inquieto, davanti al fiordo, mentre la foschia grigia e umida oscurava un orizzonte piatto, appena rischiarato dalle luci di quel villaggio che contava poche centinaia di abitanti. Quelle case isolate in mezzo quasi al nulla, che però era un nulla pieno di paesaggio, di densità, di segni. Purtroppo non ci sono più tornato da quella volta, per cui quel viaggio ha assunto anche un po' di... si è caricata del mito, ecco. Non essendoci più tornato, ha assunto un valore ancora più elevato. Il vento frustava le sarti delle imbarcazioni. Spostai nuovamente lo sguardo sulla partita in TV. E immaginai fosse una registrazione. C'era troppo sole in quello stadio. Poi però passò uno spot pubblicitario che annunciava un programma della sera. La data era inequivocabile. 10 agosto 2003. Quelle immagini erano in diretta. Guardai di nuovo fuori. Foschia grigia e vento. Un uomo con i guanti. Nel pieno dell'estate, che si sarebbe rivelata quella più torrida della nostra storia, io stavo vivendo un irreale autunno islandese. E non so perché, ma quella profonda sensazione di lontananza cominciava a piacermi. Quell'estate, così simile all'autunno, mi privava dei soliti rassicuranti punti di riferimento mentali, costringendomi a capire meglio quel viaggio e quei luoghi. Due giorni dopo affrontammo i fiordi occidentali, le terre più estreme e isolate dell'Islanda. I nuclei abitati erano ancora più radi, le strade per lo più sterrate e i distributori quasi inesistenti. Se rimanevi senza carburante, era la fine. Quella spia sul cruscotto era la cosa che fissavi di più mentre guidavi, più del tachimetro. Ci fermammo a fare rifornimento a Holmavik, 350 abitanti. Il ragazzo che gestiva il distributore era biondo, giovane e, come tutti gli islandesi, decisamente più voluminoso di me. Indossava una maglia del Parma Calcio, con la scritta Cannavaro sulla schiena. Sentendo il mio inglese incerto, riconobbe subito le mie origini italiane. Sorrise, mostrandomi la maglia. Mi chiese per quale squadra di calcio tifassi. Torino, gli risposi, immaginando che nemmeno la conoscesse. Lui invece mi guardò e ridacchiò, con la pompa di benzina in mano. Second League, mi disse raggiante. E aveva ragione. Serie B. Eravamo tristemente in Serie B e lui lo sapeva. Era simpatico, aveva un volto sorridente ed era subito gioviale e cordiale. Mi ha stupito questa sua conoscenza del calcio italiano e devo dire è stato divertente scoprire che sapesse che noi eravamo in Serie B. Sì, è stato molto divertente, ahimè, amaramente divertente. Prima di andarmene mi disse che era contento di avermi incontrato, che non passava mai nessun italiano da quelle parti. Mi tenne aperta la portiera e sorridendo mi chiese in un inglese perfetto come era possibile. Possibile cosa? Gli chiesi. Lui allora aprì un armadietto ed estrasse una maglia del Milan. Il presidente del Milan è anche il presidente dell'Italia e delle televisioni. Dietro di lui il porto di Holmavik brillava sotto un sole limpido e freddo. Lo salutai e mi allontanai, guardandolo scomparire nello specchietto retrovisore, con la sensazione di essere stato preso in giro. Ero ad Holmavik, isolato villaggio di pescatori dei fiordi occidentali islandesi. E lì, un benzinaio che parlava perfettamente inglese mi aveva compatito. Io ero là, in Islanda, ma di lì a poco sarei tornato a casa, in Italia. Provate a pensare ad uno straniero. Uno straniero di qualsiasi nazione. Fatelo ora, provate a farlo ora. Pensate ad uno straniero e immediatamente dopo rimanete in silenzio e cercate di ascoltare quella voce remotissima che vi dice qualcosa a proposito di quello straniero. Una voce che non è nemmeno la vostra, è quella di tutti. Quella voce che vi racconta la prima cosa che vi viene sempre in mente quando si pensa a qualcuno che arriva da un determinato paese. Ok, facciamo così, lo faccio io e voi statemi dietro. Penso a un francese. Grandeur, formaggio, Sarkozy. Penso a un tedesco, BMW, Krauti, sandali e calzini. Penso a un americano, un hot dog, telefilm, dollari. Penso a un russo, vodka, petrolio, Putin. Penso a un giamaicano, vabbè, questo è facile, Bob Marley, reggae, marijuana. Penso a un portoghese, spagnolo, anche se non so perché, Fado e Mourinho, ovviamente. Penso a uno svizzero, orologi, cioccolato e banche. Potrei andare avanti così per tutto il giorno. E quello che dice a me la mia voce dei luoghi comuni sbaglierebbe probabilmente di poco rispetto a quella che direbbe a voi la vostra voce dei luoghi comuni. Quando ho letto il racconto di Andrea, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata che quel benzinaio islandese era semplicemente un ragazzone male informato sulle cose dell'Italia, che non ne conosceva la complessità, che probabilmente non c'era mai venuto. E se c'era stato, aveva visitato giusto Firenze e Venezia, magari mangiando orribili pizze al taglio in bancarelle takeaway, portandosi a casa portachiavi con la Torre di Pisa, e un grembiule da cucina. Avete presente quei grembiuli con sopra il disegno dello stivale e dei piatti tipici per ogni regione? Ecco, ho pensato questo. Poi però ho provato a mettermi nei suoi panni. Anzi, ho provato ad immaginare di essere io il benzinaio italiano da cui lui, turista islandese, si ferma per fare il pieno. Provateci. Cosa avrei pensato di lui? Avrei pensato, poveraccio, in Islanda la vita non deve essere un granché. Fa un freddo cane, anche se ci sono i geyser bollenti, e vabbè, quelli sono una figata. E poi cosa c'è in Islanda? Ah, c'era ambientato uno dei miei telefilm preferiti, Un medico fra gli orsi. Come a dire, insomma, che io dell'Islanda non so niente, tranne che quelle tre cose che rimangono appiccicate di ciò che vedi o senti in giro tra la TV, i giornali e le foto su Facebook dei viaggi dei tuoi amici. Insomma, voglio dire che non so bene cosa pensino di noi gli stranieri, ma non credo sia molto diverso da quello che pensiamo noi di loro, di solito poco e male. L'unica volta in cui uno straniero mi ha dato dell'Italia una chiave di lettura interessante è stato un paio d'anni fa. Forse l'ho già raccontata, però mi piace ripeterla. È una teoria abbastanza bizzarra e anche generalista, però sentirmela raccontare mi ha fatto comunque riflettere almeno un po'. Lui l'ha chiamata la teoria della terrazza. È andata così. Ad una cena di amici stavo chiacchierando con un giornalista svedese che faceva il corrispondente dall'Italia, non so se è ancora qui o è andato chissà dove. Lui era innamorato del nostro paese e mi fece un elenco lunghissimo dei motivi per cui vivere qui era magnifico, e gli italiani erano persone splendide. Alla fine di quel lunghissimo elogio, però, concluse con questa frase: niente, peccato per questo problema che avete nei confronti delle regole. Io mi innervosii non poco e lui allora mi spiegò una teoria che era nata tra i corrispondenti di giornali stranieri che vivono in Italia, in particolar modo a Roma. Sono stati loro a inventarla e a chiamarla la teoria della terrazza. Suona grosso modo così. Dunque, qual è il motivo per cui in Italia, paese straordinario, ricco di arte, sole, mare, moda e tutte quelle robe lì, insomma, per quale motivo in Italia le cose non sono mai completamente a posto e le regole non sono mai rispettate fino in fondo? Per via della terrazza. Cioè, dicono loro, anche se tu passi 8 ore in ufficio cercando di risolvere i problemi che ti si creano lì sul lavoro, impegnandoti, mettendocela tutta, stressandoti nel tentativo di attenerti a tutte le leggi e le regole imposte dal tuo capo o da tua moglie o dallo Stato, no? Comunque, presto o tardi, arriverà sempre il momento in cui te ne torni a casa. E se vivi in una città bella dal clima mite e hai la possibilità di farti un piatto di spaghetti con un buon bicchiere di vino, chiacchierando amabilmente tra amici sulla tua o sulla loro terrazza, alla fine, ma che te ne frega se intorno le cose stanno andando a rotoli o non hai rispettato qualche regola? Ecco, questa è la teoria della terrazza. Come tutte le teorie, è generalista e non è verificabile, però racconta qualcosa del nostro paese e qualcosa di noi. Io sinceramente non credo sia completamente vera. Primo, perché non tutti hanno una terrazza. Ma bene che vada, male che vada un balcone. Ma bene che vada un balcone, male che vada manco quello. Secondo, soprattutto perché immagino che i giornalisti di mezzo mondo che vivono qui e sono autori di questa teoria, probabilmente l'hanno elaborata bevendo un buon bicchiere di vino davanti a uno squisito piatto di pasta al fresco delle loro splendide terrazze italiane. Allora, ricevo un SMS e ringrazio, perché mi piacciono sempre le correzioni, un medico tra gli orsi non era in Islanda, era in Alaska. Va bene, grazie, chiuso, andiamo subito da Andrea che invece in Islanda c'è stato e ha qualcosa sicuramente di più interessante da raccontarci. Pronto Andrea? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? In questo momento sono a Imperia, sono appena sceso dal treno e sto camminando per Imperia. Perché tu sei un architetto. Sì, sono un architetto e in questo momento sto andando a fare una lezione. Una lezione a dove? All'università? Un corso di specializzazione in urbanistica, legato all'università. E di cosa si parla oggi? Oggi si parla di un argomento un po' noioso, di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione. Senti, non sarà una lezione leggera. Quindi tu andavi in Islanda e fai viaggi di questo tipo, mi raccontava Margherita, che perché di fatto ti interessa per il tuo lavoro guardare in giro architetture nordiche o robe del genere. Sì, esatto, paesaggi, città molto particolari, città che sembrano accampamenti, grandi spazi, profondità. È un modo nuovo e interessante di comprendere il paesaggio, anche come viene tutelato. Senti, invece, tornando a quel ragazzone islandese, a quella forma di imbarazzo, ti ha imbarazzato di più la storia della maglia del Milan e del suo presidente o il fatto che il Toro, che sapesse del Toro e che il Toro fosse in Serie B? Ma purtroppo mi ha imbarazzato la storia del Toro. Mai mi sarei immaginato innanzitutto che si conoscesse la squadra del Torino in Islanda, ma ancora più in un paesino sperduto dell'Islanda. E in secondo luogo che si sapesse anche che eravamo in Serie B. Senti, è stata una amarissima e triste ma anche divertente sorpresa. Beh, questo era uno che però aveva la maglia di Cannavaro del Parma Calcio, quindi evidentemente ne sapeva qualcosa, immagino. Sì, era appassionato, era senti, ben colto. Senti, purtroppo non ho tantissimo tempo, però volevo chiederti un'ultima cosa, perché tutta la puntata di oggi racconta, grazie alla tua storia, che cosa ti rende italiano, che cosa ti fa sentire italiano. Guarda, ti faccio un esempio. Giorgio mi scrive perché lavoro per un'azienda italiana che produce in Romania e vende in Cina. Ora, non so se ci sia qualcosa di diverso che ti faccia sentire particolarmente italiano e se ce l'hai, Andrea. Ma mi fa sentire italiano il fatto di riuscire sempre a trovare la soluzione anche creativa, anche magari un po' bizzarra nelle situazioni più difficili, a uscirne sempre con qualche idea creativa comunque, anche insolita. Senti, qualche altro viaggio che hai in mente in futuro, professionale e non? Ma il mio sogno sarebbe andare sulle isole Faroe, poco oltre l'Islanda, un passo in più e vedere ancora un altro spazio vuoto. Sempre più in là, Andrea, più in là. Sempre più in là, mai fermarsi, sempre più in là. Senti, Andrea, ti ringrazio moltissimo per la storia, per le chiacchiere e buona lezione. Ciao Matteo. Ciao, grazie, puntata. Grazie mille, ciao. Voi siete qui. Ci ha mandato la sua foto anche lui, Andrea, la trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Ha una faccia da italiano, decisamente. Si vede poco, perché ha un primissimo piano un po' tagliato. Però ha la barba, ha un copricollo, forse è un motociclista. La barba è incolta, ma di quelle però ben tenute. E sì, non so perché, ma lo sguardo è decisamente italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba alla menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Io ringrazio tanto, tanto lo speaker di Radio 24 Mario Nutarelli, perché gli abbiamo chiesto di darci una lettura non tanto sua, piatta del testo di Toto Cutugno, che è un italiano che tutti conosciamo. Volevamo mandare la canzone, ma era troppo facile. Volevamo far capire qual era lo stereotipo assoluto dell'italianità. Quindi grazie a Mario Nutarelli, grazie soprattutto a Toto Cutugno, che ha mai vissuto all'estero, Toto Cutugno, per poter scrivere questo pezzo? Cioè, stando lontano, uno in teoria mette dello spazio e trova un modo per descrivere gli italiani. Grazie a tutte e due, a Mario e a Toto. 349-238-6666. Marina, mi sento italiana perché non parlo nessuna lingua straniera. Giovanni, non è male. Giovanni, mi rende italiano il mio spiccato senso del dovere che contrasta con la mia malcelata pigrizia. Io mi sentivo italiano per dei motivi ben precisi. Poi però ho ricevuto una mail qualche giorno fa che ho messo da parte, perché volevo leggerla esattamente in questa puntata. Ringrazio Ugo. Ugo mi scrive spesso sostanzialmente per correggere degli errori che faccio. E ha sentito la puntata del Vinitaly e io da astemio ho bevuto del vino. E parlavo dell'essere astemio usando il sostantivo astemia. Nessuno di noi si era posto il problema se esistesse oppure no. Se l'è fatto Ugo, che mi scrive: caro Matteo, ti faccio un esempio degli errori che fai, per tutti, tratto dall'ultima tua trasmissione che ho avuto il coraggio di ascoltare. Tieniti forte, astemia, sostantivo, non esiste, anche se tu l'hai strombazzato con fierezza per tutto il tempo. Esiste invece astenia, però è un'altra cosa. Ma ripeto, perché non ti fai consigliare da qualcuno, eccetera, eccetera. Eccolo qua. Questo è solo un pallido esempio delle tantissime castronerie che vai strologando nelle tue trasmissioni e che purtroppo, ed ecco perché ve la leggo, sono lo specchio del lassismo e dell'approssimazione per cui noi italiani siamo famigerati nel mondo. Fai un favore, studia. D'ora in poi ti scoccerò più. Tuttavia spero che metterai maggiore accuratezza nelle argomentazioni che vai propolando nel tuo microfono. Ugo, io ti prego invece non smetterla di scrivermi, perché le tue mail sono straordinarie e perché ho... Comunque, questi suggerimenti sono ricchissimi, anche se devo dire che un po' mi immalinconisce essere lo specchio del lassismo e dell'approssimazione per cui noi italiani siamo famigerati nel mondo. Però ho imparato due cose dalla tua mail, Ugo, e sono il verbo strologare, che significa evidentemente dire, raccontare nelle tue trasmissioni, ma anche sproloquiare. Adesso sto già sproloquiando, ovviamente, chiedo scusa Ugo, ma anche e soprattutto il verbo propolare, diffondere, immagino, no? Propolare nel microfono. Però forse Ugo, scusami, parlo direttamente a te, che tanto so che mi stai ascoltando, non ce la fai, più forte di te non riesci a non ascoltarmi. Propolare direi dal microfono, non nel microfono, sei d'accordo con me? Non lo sappiamo. Attenzione, non lo sappiamo. Anche questo ci rende, Ugo, me e te un po' italiani, perché diciamo così cose un po' a muzzo, sicuramente io più di te. Ma grazie ancora, grazie anche a Salvo che dice: mi rende italiano il fatto di essere di Palermo e di sentirmi un italiano diverso dagli altri. Un po' non l'ho capita, però leggevo questo messaggio perché voglio leggervi un pezzo da un libro che si chiama Radio Colonia, che è un libro magnifico che mi ha dato Tiziano da leggere, e che parla di questa radio che si chiamava Radio Colonia, una radio tedesca fatta però per gli italiani che erano andati a vivere là negli anni 70, direi, per la comunità italiana là in Germania. E questa lettera è una lettera scritta da un siciliano che si trovava là da 10 anni e stava per tornare a casa. Burscheid, 10 gennaio 1971. Gentile dottor Maturi, dopo 10 anni che mi trovo in Germania, questa è la prima volta che mi accingo a scriverle una lettera. Perciò oggi la mia presente non ha nessun carattere sociale, ma direi quasi una lettera di protesta. Protesta, si intende, contro i tedeschi, che non finiscono di soprannominarci Macaroni und Spaghetti Fresser. Ora, non basta più sentire questa parola giornalmente in fabbrica o in giro, dove siamo con loro a contatto. Ora abbiamo il piacere di sentirlo anche per televisione. Proprio oggi, 10 gennaio 1971, nella trasmissione Dreschaib, la presentatrice signora Ria Wolf così ci ha definiti, in un'intervista fatta agli italiani che pagano 14 marchi di affitto per metro quadrato al mese. Dunque, questo sarebbe il ringraziamento da parte dei tedeschi verso di noi italiani, che pur di conservarci il nostro posto di lavoro ci sottomettiamo a pagare affitti elevatissimi per certe stamberghe, per non dire addirittura stalle. In fabbrica, molte volte, sentendo spaghetti fresser, ci stiamo zitto e facciamo finta di non capire, sempre per evitare questioni. Ma talvolta qualcuno perde la pazienza. Ed ecco che accade che perde anche la libertà. Ora, io sono quasi al termine del mio soggiorno in Germania, perché sono riuscito a farmi una casetta in Italia e ho anche qualche soldo da parte. Perciò ringrazio la Germania per quello che mi ha fatto guadagnare, ma spero con tutto me stesso di non avere più bisogno di tornarci, perché sono stufo del carattere dei tedeschi, del suo comportamento verso di noi stranieri. Ora, vorrei tanto che si prendessero delle misure precise per difendere gli italiani. Da tutto ciò, non parlo per me, ma per quelli che ancora devono soggiornare in questa terra. Buongiorno Italia. Gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. È più forte di me, non riesco a non sentirla. Credo che mi farò dare il file e me lo porterò a casa. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con ringrazio America ancora Mario e ringrazio soprattutto Toto. Tornando al brano che vi ho letto prima, tratto appunto da un libro che si chiama Radio Colonia, che è la storia di questa radio che trasmetteva per gli italiani espatriati in Germania. Una piccola traduzione. Fresser significa mangiatori. Quindi quando Rosario diceva i tedeschi non finiscono di soprannominarci Maccheroni und Spaghetti Fresser, significa mangiatori di maccheroni e di spaghetti. Ringrazio tutti quelli che hanno reso il possibile il programma di oggi, che sono Margherita Ina, Tiziano Bonini e Roberto Scaltritti. Ringrazio però anche Salim, che mi ha scritto questo messaggio: mi sento italiano perché i miei genitori sono partiti anni fa dallo Sri Lanka e hanno trovato un lavoro, una casa e una scuola per me. Ora io parlo italiano e cingalese, vivo a Fiesole e ho una fidanzata di Sesto Fiorentino. Sono italiano e sono felice. Non so quanto distino Fiesole a Sesto Fiorentino, immagino poco. Comunque si parla di intorno di Firenze, giusto, pieno. Quindi probabilmente Salim c'ha pure un accento toscano. Visto invece che Milano e Verona non distano pochi chilometri, mi tocca scappare perché alle 18, per chi avesse voglia di venirci, presento il mio ultimo libro alla FNAC a Verona. Grazie a tutti. Il racconto di oggi era il racconto di Andrea e parlava di essere italiani e di sentirsi italiani. Quello di domani invece è di Antonello e parla di primavera.